Questo voleva dire la rivoluzione, praticamente. Voleva dire, beh, certo voleva dire la rivoluzione, secondo però una interpretazione diversa da quella che allora si dava, perché per me fin dal 1919 sostenni allora quello che ho poi sostenuto nel 1943-44, che la parola d'ordine doveva essere costituente e repubblica. E che cioè parole come Soviet, dittatura del proletariato, nella società italiana potevano costituire un fermento, un motivo di studio, un fatto politico e anche un fatto culturale, ma non un fatto di massa, perché non si muovono le masse su idee che non siano state a lungo maturate, spiegate. E Sì, ora si quindi io ritorna. consideravo che c'era una situazione rivoluzionaria, ma per fini di, ma nell'ambito di una rivoluzione, chiamiamola così, di carattere democratico, non nell'ambito che gli si voleva dare, cioè fare come in Russia. Per fare come in Russia bisognava che l'Italia fosse la Russia, e invece non era la Russia, oltre all'altra esigenza che cioè esistessero anche i rapporti di forza politica che esistevano, che si erano creati in Russia dal febbraio all'ottobre e che da noi non c'erano in modo assoluto. Quelle che allora erano parole d'ordine, soviet, consigli, eccetera, che tu giudichi immature o comunque non omogenee alla società italiana, oggi invece stanno riprendendo, c'è tutta Oggi vedo questa che stanno riprendendo ed dinamica. esprimono una tendenza giusta, anche se non so se siano quelle le parole che poi traducono queste esigenze. Insomma, qual è l'esigenza? L'esigenza di che cosa? Che cos'è la contestazione, secondo me? È il rifiuto dei giovani della delega del potere. Io direi che questa è la spiegazione Esatto. più giusta. Non vogliono delegare il potere. Non lo vogliono più gli operai. E la democrazia dal basso. Ecco, è una democrazia diretta che si esprime attraverso forme di vita di base. E da questo punto di vista, il Soviet, nella sua forma iniziale, fu Iniziale, certamente questo. sì. Fu certamente questo. Ma l'idea decidere in un congresso in Italia la creazione dei Soviet voleva dire perdere del tempo, e del resto fu tutto tempo perso, perché i Soviet non si organizzarono, non erano, bisogna sempre collegarsi a un filone della cultura del paese in cui tu operi e della tradizione del paese in cui tu operi. Non puoi prescindere in Francia dalla storia della Francia e in Italia dalla storia dell'Italia o via via nei vari paesi dalla storia di quel paese, dai fatti culturali di quel paese, e quindi devi trovare formule, strumenti, organismi che siano in corrispondenza con questa linea di sviluppo e di tradizione.